Chiedi quello che ti pare, tanto noi siamo col doppio. Quanti vi pare, se facciamo fischio e siamo il doppio. Con un fischio ce n'è un botto, mentre a Chito rido, fottuto mosso. Mi sveglio la mattina, metto erba dentro una rizla. Saluto mia mamma, un secondo dopo sto in strada. Sti rappers dicono cazzate, e se non è così giuratelo su vostra madre, che un lampo la fulminasse. 126 per gordo, sto in giro con Nino Sean. Vuoi fotterci, finisci morto. Poi fumo erba e lo scordo. E non scordarti quel nome, è Dark Gang 37. In questa merda solo per vincere, se poi puoi scommettere. Milioni di carte volanti, tutti fatti, impazziamo, mine vaganti, cavalli pazzi, pezzi di crack, vicoli trasevere, scemo, tutt'uno col terreno, in botta dal medio, evo, Nino mi risveglia dal letargo in primavera, mi sembra di rivivere la stessa scena, a cena niente ristorante, Arturo arrotola il contante, apriamo le danze, è un ristorante. Prendi quello che ti pare, tanto noi siamo col doppio. Quanti vi pare, facciamo un fischio e siamo il doppio. Con un fischio ce n'è un botto, mentre a Chito ride, fottuto mostro.